Anche oggi la liturgia ci propone un salmo intenso come significato, il salmo 77-78, in cui il salmista dice e ripete al credente che la sua fede la deve consegnare, la deve trasmettere ai suoi figli, alle generazioni che vengono. Vi leggo qualche passaggio. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose del Signore e le meraviglie che ha compiuto. L'altro versetto è ancora più forte, ti dice: il Signore ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, ha posto una legge in Israele e ha comandato ai nostri padri di farle conoscere ai loro figli. Sono tre parole importanti: l'insegnamento, una legge, un comando, perché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Punto a capo. Terzo versetto ti dice: anche i tuoi nipoti, cioè essi, i tuoi figli che l'hanno imparato da te, si alzeranno a raccontarlo poi ai loro figli. Dunque, è chiarissimo questo insegnamento, che ciascuno di noi che ha ricevuto la fede dai suoi padri deve viverla e deve trasmetterla alla propria discendenza. Io credo che il punto debole della fede oggi nella Chiesa sia proprio questo. E non mi si dica, per favore, ma io le ho insegnate a mio figlio. Ma quando era piccolino andava a messa, poi da quando si è sposato ha trovato una ragazza che non va, basta. Le donne sono sempre più forti, Sono più capaci di convincere loro, perché tuo figlio non è stato capace di convincere la sua donna, perché forse non era così tanto convinto. Allora come dovremmo trasmettere ai nostri figli? Con la nostra esperienza, amici. Troppo la trasmissione della fede è basata sulla lezione. Si va nelle parrocchie a lezione di catechismo. E quando noi trasmettiamo agli altri qualche cosa, vai a messa, confessati. Oppure, non so se nelle nostre case si fa catechismo, se mai raccontata la storia biblica ai nostri nipotini? No, si racconta la storia di Walt Disney. Io che ho provato a raccontare ai miei nipoti la storia di Stefano, la storia di Saulo, adesso che c'hanno 40 anni, la ricordano ancora perfettamente, perché il bambino è una carta assorbente. Purché nelle nostre case siamo in grado di spiegare la fede, anzi, di trasmettere la fede. Scusatemi, amici, tutti noi saremmo in grado di spiegare ai nostri nipoti che cos'è il battesimo? A spanne sì, ma se appena appena entriamo dentro un po' nel ragionare, ma il battesimo ti fa diventare figli di Dio? Sì, allora prima non lo eri? O se tuo figlio ti chiede: perché non aspettiamo da grandi a far battezzare quando uno sceglie libero? Ma poi se tu devi spiegare l'essenza del battesimo, e se dovessimo spiegare l'essenza dell'Eucaristia? E se dovessimo spiegare per bene l'unzione dei malati? E se dovessimo spiegare per bene l'ordine sacerdotale? Siamo in grado, amici? E i 10 comandamenti, uno per uno, potremmo spiegarli bene? Sappiamo per esempio che il 5° comandamento si può offendere in più di una dozzina di modi? È mica solo l'ammazzare, è anche il suicidio, è anche l'omicidio attraverso l'aborto e così via. Una dozzina di modi si possono, siamo in grado noi di trasmettere. E l'amore ai poveri, amici. Quando si parla di questo, a me viene sempre in mente un episodio raccontato dall'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre, forse chi di voi è più grande lo conoscerà, era un sacerdote famoso in Francia, è stato persino parlamentare, era prete, ma fu al Parlamento francese, che dopo la Seconda Guerra Mondiale mise in piedi un aiuto ai poveri, a chi non aveva casa, a chi non aveva da mangiare. È bella la vita, è bella la vita di questo grande. Bene, lui da piccolino, suo papà lo portava nelle baracche dei poveri, perché suo padre, che era un industriale, faceva la carità non elargendo 10 franchi, elargendo 100 franchi, ma tirando sulle maniche, alla domenica andava dai poveri e raccontava di una volta che andò nella baracca, mi pare di Lione, della baraccopoli di Lione o giù di lì, e a un uomo anziano, noi lo diremmo un barbone, fargli la barba. Lo insapona per bene, prende un bel rasoio, si mette a radergli bene, gli scappa un momentino la mano, gli fa un piccolo taglietto sulla barba, sul mento, quello si mette a bestemmiare e dice: coi poveri usate sempre i ferri vecchi. E quest'uomo, che sapeva che non era così, perché era un rasoio di marca, dice: guarda, le chiedo scusa, e riprende il suo lavoro. Quando escono, il figlio dice: papà, ma perché gli hai chiesto scusa? Aveva torto, ti ha insultato, era buono il rasoio. Guarda, gli ho chiesto scusa perché l'ho umiliato aiutandolo. Si fa più fatica a lasciarsi aiutare che ad aiutare. Capito? Si trasmette la fede con le esperienze.